Parlavano sempre e costantemente di soldi quegli uomini, di quanto avevano pagato per un piede di tessuto e di quanto avevano pagato per un pesciolino lungo come il dito di un uomo, o di quanto riuscivano a guadagnare in un giorno e sempre alla fine di cosa avrebbero fatto se avessero avuto i soldi che l'uomo al di là del muro aveva nei suoi bauli. Ogni giorno il discorso finiva così: ah, se avessi tutto l'oro che ha lui e nella mia mano tenessi l'argento che lui ogni giorno porta nella cintura e se avessi le perle che portano le sue concubine e i rubini che sua moglie indossa. E ascoltando tutte le cose che avrebbero fatto se avessero avuto quelle cose, Wang Lung sentiva solo quanto avrebbero mangiato e dormito e quali prelibatezze mai assaggiate prima avrebbero mangiato. E come avrebbero giocato d'azzardo in questa o in quella grande casa da tè, e quali belle donne si sarebbero comprati per il proprio piacere, e soprattutto come nessuno avrebbe più lavorato, proprio come non aveva mai lavorato il ricco dietro al muro. Allora Wang Lung esclamò all'improvviso: se avessi l'oro e l'argento e i gioielli li userei per comprare delle terre, buone terre, e da queste terre otterrei raccolti. Al che gli altri si rivoltarono uniti contro di lui e lo rimproverarono. Eccolo, il bifolco con il codino che non capisce niente della vita di città e di quel che si può fare coi soldi. Continuerebbe a lavorare come uno schiavo dietro un bue o a un asino. E ognuno di loro sentiva di meritare le ricchezze più di Wang Lung perché sapevano meglio come spenderle. Ma il disprezzo non gli fece cambiare idea. Si limitò soltanto a dire a se stesso, anziché a voce alta e rivolto agli altri: comunque io metterei l'oro e l'argento e i gioielli in buone e ricche terre. E pensando a questo, l'impazienza di rivedere le terre che erano già sue fu ogni giorno più grande. Ossessionato sempre dal pensiero dei suoi campi, Wang Lung vedeva come in un sogno le cose che ogni giorno gli succedevano attorno alla città. Accettava tutte quelle stranezze senza chiedersi perché succedessero, vedendo solo quel che il giorno portava. C'erano per esempio i fogli che gli uomini distribuivano qua e là e a volte anche a lui. Wang Lung non aveva mai imparato in gioventù o in qualsiasi altro momento il significato dei caratteri sulla carta e perciò non poteva riconoscere alcun senso in quella carta coperta di segni neri, incollata sulle porte cittadine o sui muri, o venduta a manciate o perfino distribuita gratuitamente. Due volte gliel'avevano data. La prima volta era stato uno straniero, un uomo e non una donna come quella che aveva fatto inconsapevolmente salire un giorno sul suo rickshaw, che gli aveva dato il foglio di carta. Un uomo alto e magro, come un albero su cui si sono abbattuti aspri venti. Aveva gli occhi azzurri come il ghiaccio e la faccia pelosa, e quando gli diede il foglio, Wang Lung vide che anche le sue mani erano pelose e avevano la pelle rossa. Aveva inoltre un grande naso che si protendeva in fuori rispetto alle guance, come la prua rispetto ai fianchi di una nave. E Wang Lung, benché fosse spaventato all'idea di prendere qualcosa dalla sua mano, vedendo gli strani occhi dell'uomo e il suo terribile naso, aveva ancora più paura di rifiutare. Prese allora quel che gli veniva ficcato in mano e quando ebbe il coraggio di guardarlo, dopo che lo straniero era passato oltre, vide sul foglio l'immagine di un uomo dalla pelle bianca appeso su una croce. L'uomo portava solo un pezzetto di tela attorno ai lombi e sembrava morto, perché la testa gli pendeva su una spalla e gli occhi, sopra le labbra coperte dalla barba, erano chiusi. Wang Lung guardò l'uomo lì rappresentato con raccapriccio e con crescente interesse. Sotto c'erano dei caratteri, ma non sapeva cavarne niente. Quella sera portò a casa l'immagine e la mostrò al vecchio, ma nemmeno lui sapeva leggere, e discussero il possibile significato, Wang Lung e il vecchio e i due bambini, che esclamarono tra la delizia e l'orrore: «E guarda il sangue che gli cola giù di fianco!» E il vecchio disse: «Deve essere stato di sicuro un uomo molto malvagio se l'hanno appeso così.» Ma Wang Lung ebbe paura dell'immagine e si chiedeva come mai uno straniero gliel'avesse data. Se forse un suo fratello non fosse stato trattato a quel modo e i suoi confratelli cercassero vendetta. Evitò perciò la strada dove aveva incontrato l'uomo e pochi giorni dopo, quando il foglio era stato dimenticato, Olan lo prese e lo cucì nella suola di una scarpa insieme ad altri pezzi di carta che aveva raccolto qua e là per rafforzare le suole. Ma la volta successiva a porgere liberamente un pezzo di carta a Wang Lung fu un uomo di quella città, un giovane ben vestito che parlava ad alta voce, distribuendo fogli tra la folla che sempre si accalca attorno a qualsiasi cosa nuova e strana ci sia in una strada. Anche quel pezzo di carta riportava un'immagine di sangue e morte. Stavolta chi moriva non era però chiaro di carnagione e peloso, ma uno come Wang Lung, un uomo comune, giallo e sottile, e dagli occhi e dai capelli neri, e vestito di abiti blu stracciati. Un omone grasso stava sopra la figura del morto e continuava a pugnalarla con un lungo coltello che teneva in mano. Era una vista pietosa e Wang Lung la fissò e avrebbe desiderato decifrare i segni sottostanti. Si girò verso l'uomo accanto a lui e disse: «Lo conosci un segno due, tanto da dirmi il significato di questa cosa terribile?» E l'uomo disse: «Stai zitto e ascolta il giovane maestro, lui ci dirà tutto.» E così Wang Lung ascoltò e udì cose che non aveva mai udito prima. «L'uomo morto siete voi», proclamò il giovane maestro. «E l'assassino che vi pugnala quando siete morti e non lo sapete sono i ricchi e i capitalisti che vi pugnalerebbero anche da morti. Siete poveri e oppressi perché i ricchi si impadroniscono di tutto.» Wang Lung sapeva benissimo di essere povero, ma fino a quel momento ne aveva dato la colpa al cielo che non voleva piovere nella stagione giusta o che dopo la pioggia continuava a piovere come se la pioggia fosse una cattiva abitudine. Quando il sole e la pioggia erano in giusta proporzione, i semi della terra germogliavano e gli steli portavano il grano e lui non si considerava povero. Quindi ascoltò, curioso, di sentire cosa c'entrassero i ricchi col fatto che il cielo non pioveva nella stagione giusta. E alla fine, quando il giovane ebbe parlato e parlato, senza tuttavia dire nulla sulla questione che tanto lo interessava, Wang Lung prese coraggio e chiese: «Signore, c'è un modo per convincere i ricchi che ci opprimono a far piovere così che possa lavorare la terra?» A quel punto il giovane si rivolse a lui con disprezzo e rispose: «Quanto sei ignorante, tu che continui a portare i capelli intrecciati in un lungo codino! Nessuno può portare la pioggia quando non vuol piovere, ma cos'ha questo a che fare con noi? Se i ricchi dividessero con noi quello che hanno, pioggia o no, non avrebbe importanza perché avremmo tutti soldi e cibo.» Un forte grido si levò da quanti ascoltavano, ma Wang Lung si allontanò insoddisfatto. «Sì, certo, ma c'era la campagna. Soldi e cibo sono spesi e consumati, ma se non c'è proporzione tra sole e pioggia, torna la fame.» Prese comunque di buon grado i fogli che il giovane gli diede perché sapeva che Olan non aveva mai abbastanza carta per le suole delle scarpe e perciò, arrivato a casa, glieli diede dicendo: «Ecco, qui c'è un po' di roba per le suole delle scarpe.» E continuò a lavorare come prima. Ma fra gli uomini delle baracche con cui parlava di sera ce n'erano che avevano ascoltato con entusiasmo quel che il giovane aveva detto e con tanto più entusiasmo perché sapevano che al di là del muro viveva un ricco. E sembrava un'inezia che tra loro e le sue ricchezze ci fosse solo quello strato di mattoni, che si poteva abbattere con pochi colpi di una solida pertica, come quelle che usavano ogni giorno per portare sulle spalle i loro carichi pesanti. E allo scontento della primavera si aggiungeva adesso il nuovo scontento che il giovane e altri come lui spargevano negli animi degli abitanti delle baracche, il senso dell'iniquità che altri possedessero quelle cose che loro non avevano. E pensando giorno dopo giorno a quelle questioni e parlandone al crepuscolo, e soprattutto poiché la fatica giorno dopo giorno non portava nulla in più al loro salario, nei cuori dei giovani e dei forti sorse un'onda di piena, irresistibile come quella del fiume, gonfia di neve dell'inverno, la corrente di un enorme desiderio selvaggio. Ma Wang Lung, pur vedendo ciò e sentendo i discorsi e percependo la loro rabbia con una strana inquietudine, non desiderava altro che avere nuovamente sotto i piedi i suoi campi. Poi, in quella città da cui gli saltava sempre incontro qualche novità, Wang Lung vide un'altra cosa nuova che non capì. Un giorno che tirava il suo rickshaw vuoto lungo una strada in cerca di un cliente, vide un uomo che era stato fermato da un piccolo gruppo di soldati armati e quando l'uomo protestò, i soldati gli agitarono in faccia dei coltelli e mentre Wang Lung osservava stupito, un altro uomo fu fermato e poi ancora un altro e Wang Lung si accorse che gli uomini fermati erano tutte persone comuni che lavoravano con le mani e mentre se ne stava lì a guardare, Un altro uomo ancora fu fermato. E questo era uno che viveva nella baracca accanto alla sua, contro il muro. Allora Wang Lung capì all'improvviso, nel suo stupore, che tutti quegli uomini fermati non sapevano meglio di lui perché erano stati presi così, volenti o nolenti. E Wang Lung spinse il suo rickshaw in un vicolo laterale, lo lasciò lì e si slanciò verso la porta di un negozio di acqua calda per non essere il prossimo, e rimase nascosto, accovacciato dietro i grandi pentoloni, fin quando i soldati furono passati oltre. E poi chiese all'uomo del negozio di acqua calda il significato di ciò che aveva visto. E quello, vecchio e raggrinzito per via del vapore che si levava di continuo dai pentoloni di rame della sua attività, rispose con indifferenza: "È solo l'ennesima guerra da qualche parte. Chissà che senso ha tutto questo combattere di qua e di là, ma è così fin da quando ero bambino, e così sarà dopo che sarò morto, ne sono sicuro. Sì, ma perché prendono il mio vicino che è innocente come me, che non so niente di questa nuova guerra?" chiese Wang Lung con grande costernazione. E il vecchio fece sbattere i coperchi dei suoi calderoni e rispose: "Quei soldati vanno da qualche parte a combattere, hanno bisogno di portatori per le coperte, i fucili e le munizioni, e quindi costringono dei lavoratori come te a farlo. Ma da dove vieni tu? Non è uno spettacolo nuovo in questa città." "Ma e poi?" incalzò Wang Lung senza fiato. "La paga e il ritorno!" Il vecchio però era molto vecchio e non aveva grandi speranze in niente e nessun interesse al di là dei suoi calderoni, e rispose distrattamente: "Paga non ce n'è, solo due pezzi di pane secco al giorno e una minestra pescata su da una pozza, e una volta arrivati a destinazione puoi andartene a casa se le tue gambe riescono a portarti." "Ma un uomo ha una famiglia," disse Wang Lung sbigottito. "E loro cosa ne sanno? E cosa gliene importa?" disse sprezzante il vecchio, sbirciando sotto il coperchio di legno del calderone più vicino per vedere se l'acqua aveva cominciato a bollire. Una nuvola di vapore lo avvolse, nascondendo quasi del tutto la sua faccia rugosa. Tuttavia fu gentile, perché uscito finalmente dal vapore vide quel che Wang Lung non riusciva a vedere dal punto in cui si era accovacciato, cioè che i soldati si stavano avvicinando un'altra volta, perlustrando le strade da cui ora ogni uomo dalla corporatura adatta alla fatica era fuggito. "Stai ancora giù," disse Wang Lung, "sono tornati." E Wang Lung si accovacciò dietro i calderoni, e i soldati si diressero verso ovest, scalpicciando forte sul selciato, e quando il rumore dei loro stivali di cuoio fu scomparso, Wang Lung schizzò fuori e corse verso la baracca col suo rickshaw vuoto. Allora, con parole spezzate e ansimanti, raccontò a Olan, che era appena tornata a cucinare un po' delle erbe che aveva raccolto sul bordo della strada, quel che stava succedendo e come era riuscito a stento a scappare, e mentre parlava, quel nuovo terrore lo afferrò, il terrore di essere trascinato ai campi di battaglia, e che non soltanto il suo vecchio padre e la sua famiglia sarebbero rimasti soli a morire di fame, ma che lui stesso sarebbe morto sul campo di battaglia e il suo sangue si sarebbe versato e non avrebbe mai più visto i suoi campi. Guardò spaurito Lan e disse: "Adesso sono davvero tentato di vendere la piccola schiava e di tornare a nord, ai nostri campi." Ma dopo aver ascoltato, lei rifletté e disse alla sua maniera tranquilla e impassibile: "Aspetta qualche giorno, circolano strane voci." In ogni caso Wang Lung non uscì più alla luce del giorno e mandò invece il bambino più grande a riportare il rickshaw nel posto dove l'aveva affittato e aspettò il calare del buio e andò ai magazzini e per la metà di quel che guadagnava prima trascinava ora per tutta la notte grandi carrettate di casse. Ogni carro era tirato da una dozzina di uomini che faticavano fino allo stremo e gemevano, e le casse erano piene di seta e di cotone e di profumato tabacco, così profumato che l'odore trapassava il legno, e c'erano grandi vasi di olio e vino. Per tutta la notte, lungo le strade buie, tirava con tutte le forze le corde, il corpo nudo su cui scorrevano rivoli di sudore, mentre i piedi nudi scivolavano sui ciottoli bagnati e viscidi per l'umidità della notte. Davanti a loro un ragazzino correva con una torcia accesa per indicare la via, e alla luce di quella torcia le facce e i corpi degli uomini e i sassi bagnati luccicavano allo stesso modo. Wang Lung tornava a casa prima dell'alba, boccheggiante e troppo spossato per mangiare prima di aver dormito. Ma durante la giornata luminosa, mentre i soldati perlustravano la strada, lui dormiva al sicuro nell'angolo più nascosto della baracca, dietro un mucchio di paglia che Olan aveva raccolto per creargli un riparo. Di quali battaglie si trattasse o chi combattesse chi, tutto questo Wang Lung non lo sapeva. Ma con l'avanzare della primavera, i timori e l'agitazione riempirono la città. Tutto il giorno carrozze tirate da cavalli trasportavano uomini ricchi e i loro beni, abiti e coperte di raso e le loro belle donne e i loro gioielli fino al bordo del fiume dove le navi li portavano in altri luoghi e alcuni si dirigevano in quell'edificio dove i carri di fuoco andavano e venivano. Wang Lung non usciva mai in strada durante il giorno, ma i suoi figli tornavano con gli occhi sgranati e luccicanti e gridavano: «Ne abbiamo visto uno così, e un altro così, e un uomo grasso e mostruoso come un dio in un tempio, con il corpo coperto di strati e strati di seta gialla, e sul pollice aveva un grande anello d'oro con una pietra verde che sembrava un pezzo di vetro, e la sua carne scintillava tutta per l'olio e per quello che mangiava». Il più grande raccontò: «E abbiamo visto un mucchio di cassette, e quando ho chiesto cosa c'era dentro, un tizio mi ha detto: c'è dentro oro e argento, ma i ricchi non possono portarsi via tutto quello che hanno e un giorno sarà nostro». «Cosa voleva dire, padre?» E il bambino guardò il padre con grandi occhi interrogativi. Ma quando Wang Lung rispose bruscamente: «Come faccio a sapere cosa pensa un fannullone di città?» Il bambino esclamò pensoso: «Oh, vorrei tanto andare già adesso a prendere quello che è nostro. Vorrei assaggiare un dolce. Non ho mai assaggiato un dolce con sopra il sesamo». A quelle parole il vecchio levò lo sguardo dai suoi sogni e disse, come canticchiando fra sé: «Se il raccolto era stato buono, avevamo dei dolci per la festa d'autunno, quando il sesamo era stato trebbiato, e prima di venderlo ne tenevamo un po' per farne dei dolci così». E Wang Lung ricordava i dolci che Olan aveva fatto una volta per il Capodanno, dolci di farina di riso e lardo e zucchero, e gli venne l'acquolina in bocca, e il cuore gli si strinse per la nostalgia di ciò che era passato. «Se solo fossimo di nuovo sulle nostre terre», mormorò. Poi all'improvviso gli sembrò di non poter più restare un solo giorno in quella maledetta baracca dove non poteva nemmeno stendersi in lunghezza dietro il mucchio di paglia, e che non avrebbe potuto resistere un'altra notte intera alla fatica, il corpo piegato, mentre una corda si incideva nella sua carne, trascinando il carico sull'acciottolato. Conosceva ormai ogni sasso come un singolo nemico, e conosceva ogni solco che gli permetteva di evitare un sasso e consumare un'oncia in meno della sua vita. C'erano momenti, durante le notti scure, soprattutto quando pioveva e le strade erano bagnate, ancora più bagnate del solito, in cui l'intero odio del suo cuore si sfogava contro quei sassi sotto i suoi piedi, quei sassi che sembravano staccarsi e appendersi alle ruote del suo carico disumano. «Ah, la bella campagna!» esclamò ad un tratto e scoppiò a piangere, tanto da spaventare i bambini. Mentre il vecchio, guardando costernato il figlio, storse il viso sotto la barba rada, come fa un bambino quando vede piangere la madre. E di nuovo fu Olan a dire, nella sua voce piana e monotona: «Ancora un po' e vedremo qualcosa. Ormai ne parlano dappertutto». Dalla sua baracca, in cui stava nascosto, Wang Lung sentiva, un'ora dopo l'altra, rumore di passi, i passi dei soldati che marciavano verso la battaglia. A volte, sollevando un poco la stuoia che stava fra lui e loro, accostava un occhio alla fessura e vedeva passare di continuo quei piedi, scarpe di cuoio e gambe coperte di tela che marciavano una dopo l'altra, appaiate, un drappello dopo l'altro, migliaia e migliaia. Durante la notte, mentre tirava il suo carico, vedeva le loro facce guizzare un istante alla luce della torcia, strappate un istante fuori dall'oscurità. Non osava chiedere nulla, ma trascinava ostinatamente il suo carico e mangiava in fretta la sua ciotola di riso e durante il giorno dormiva a sprazzi di sonno nella baracca dietro la paglia. In quei giorni nessuno parlava. La città era scossa dalla paura e ognuno faceva in fretta quel che doveva fare ed entrava nella sua casa e chiudeva la porta. Non c'erano più le oziose chiacchiere al crepuscolo attorno alle baracche. Nei mercati i banchi del cibo erano adesso vuoti. I negozi di sete avevano ritirato le insegne colorate e chiuso le porte dei loro grandi negozi con spesse tavole che combaciavano solidamente, tanto che passando per la città a mezzogiorno si aveva l'impressione che la gente stesse dormendo. Dovunque si sussurrava che il nemico si stava avvicinando e tutti quelli che possedevano qualcosa avevano paura. Ma Wang Lung non aveva paura. E nemmeno gli abitanti delle baracche ne avevano. Innanzitutto non sapevano chi fosse quel nemico e non avevano niente da perdere perché nemmeno le loro vite rappresentavano una grande perdita. Se il nemico si avvicinava, che facesse pure, visto che le cose per loro non sarebbero potute andare peggio. Ma ognuno andava per la propria strada e nessuno parlava apertamente a un altro. Poi i capi dei magazzini dissero agli uomini che tiravano le casse avanti e indietro dal bordo del fiume, che non c'era più bisogno che venissero perché non c'era niente da vendere e comprare in quei giorni ai banchi dei magazzini. E quindi Wang Lung rimaneva nella sua baracca giorno e notte senza fare niente. All'inizio era contento perché sembrava che il suo corpo non fosse mai riposato abbastanza e il suo sonno era pesante come quello di un morto. Ma se non lavorava non guadagnava nemmeno e nel giro di qualche giorno le poche monetine di scorta non c'erano più e ricominciò a guardarsi intorno in cerca di qualche cosa da fare. E come se la disgrazia non li avesse già colpiti abbastanza, anche le mense pubbliche chiusero le porte e quelli che in quel modo avevano provveduto ai poveri si chiusero nelle loro case e non c'erano né cibo né lavoro e nemmeno passanti a cui chiedere l'elemosina. Allora Wang Lung prese in braccio la bambina e sedette con lei nella baracca e la guardò e disse dolcemente: Scioccherella, ti piacerebbe andare in una grande casa dove c'è da bere e da mangiare e do dove puoi avere una giacca intera per coprirti? La bambina sorrise senza capire cosa il padre stesse dicendo e sollevò la manina per toccare meravigliata i suoi occhi che la fissavano e lui non riuscì a sopportarlo e rivolte alla donna, esclamò: Dimmi, e ti picchiavano nella grande casa? E lei rispose in tono pacato e distante: Mi picchiavano ogni giorno. E lui esclamò ancora: Ma solo con una cintura di tessuto, con il bambù o con la corda? E lei rispose alla stessa maniera inespressiva: Mi picchiavano con una cinghia di cuoio che era stata alla cavezza di uno dei muli e stava appesa alla parete della cucina. Wang Lung sapeva bene che lei comprendeva il suo pensiero, ma pose avanti la sua ultima speranza e disse: Questa nostra bambina è graziosa anche adesso. Dimmi, anche le schiave graziose venivano picchiate? E lei rispose in tono indifferente, come se una cosa o l'altra fosse per lei lo stesso. Sì, picchiata, o portata nel letto di un uomo a seconda del capriccio, e non solo di uno, ma di chiunque la desiderasse quella notte. I giovani signori bisticciavano e barattavano fra loro questa o quella schiava, tu stanotte e io domani. E quando loro erano tutti stanchi di una schiava, i servi bisticciavano e barattavano quel che i giovani signori avevano lasciato, e tutto questo quando non era ancora uscita dall'infanzia, se era graziosa. Allora Wang Lung lanciò un gemito e strinse a sé la bambina e continuava a dirle dolcemente: Oh scioccherella, oh povera scioccherella. Ma dentro di sé piangeva come un uomo piange quando è afferrato da una piena impetuosa e non riesce a staccarsi dal pensiero. Non c'è altro modo, non c'è altro modo. Poi, all'improvviso, mentre stava seduto là, si sentì un rumore che pareva il cielo crollasse, e ognuno di loro cadde istintivamente a terra e nascose la faccia perché sembrava che quel terribile rombo li avrebbe afferrati e schiacciati tutti. E Wang Lung coprì con la mano la faccia della bambina, non sapendo quale mostruosità si sarebbe manifestata dopo quel baccano spaventoso. E il vecchio gridò nell'orecchio di Wang Lung: Questo non l'ho mai sentito prima in tutti i miei anni! E i due bambini gridarono per la paura. Ma Olan, dopo che il silenzio fu caduto tanto all'improvviso quanto se n'era andato, sollevò la testa e disse: Quello che avevo sentito dire, adesso è successo. Il nemico ha sfondato le porte della città e prima che chiunque potesse risponderle, un grido riecheggiò sulla città, un grido sempre crescente di voci umane, all'inizio debole come il suono prodotto dal vento all'avvicinarsi di una tempesta che poi si raduna diventando un ululato profondo, sempre più forte a mano che riempie le strade. Wang Lung sedeva dritto sul pavimento della sua baracca e una strana paura strisciava nella sua carne, tanto che la sentiva muoversi fra le radici dei capelli, e ognuno sedeva dritto e tutti si guardavano in attesa di qualcosa che non sapevano, ma c'era solo il rumore della folla che si andava radunando e il grido di ciascun uomo. Poi, sopra la parete e non lontano da loro, sentirono il rumore di una grande porta che cigolava sui cardini e gemeva, aprendosi con riluttanza, e all'improvviso l'uomo che una volta, al crepuscolo, fumando una corta pipa di bambù, aveva parlato a Wang Lung, infilò la testa nell'apertura e gridò: «Sei ancora seduto lì? L'ora è arrivata! Le porte del ricco sono aperte per noi!» E per qualche strano effetto di magia, Olan, strisciando sotto il braccio dell'uomo che parlava, era già sparita. Allora Wang Lung si alzò lentamente, semistordito, e mise a terra la bambina e uscì. E là, davanti al grande portone di ferro della casa del ricco, una rumoreggiante moltitudine di persone comuni premeva, gridando, ed era proprio il grido profondo, feroce, che aveva già sentito levarsi e gonfiarsi dalle strade, e capì che alle porte di tutti i ricchi c'era la stessa urlante moltitudine di uomini e donne, affamati e prigionieri, e che erano ora liberi di fare quello che volevano.